posto sopra il trono del benessere sociale, perduto nell'ingorgo dell'ozio più totale. Vi vedo barcollare come dondoli stagionati, in questa vita siete tutti raccomandati. Ma amo il mio divano e a quello che conduce. Io mi lamento e dico che il sogno americano, certo che vi ammaliati, a voi raccomandati. Corruzione, la mia testa voglio alzare e non dir più per favore. Ora sento la presenza, siamo tutti circondati, nella vita vanno avanti, sono